Mannaggia santa pupa, brevi monologhi immaginari di donne realmente vissute. Mona Lisa, La Gioconda, 1503, infinito. Che vuoi? Perché prendersela con me? Io? A me la pena. Ho un nome. Fino alla morte di lui sono stata detta non finita, in funzione di lui, Leonardo. Questa faccia, questo ghigno bislacco, impossibile da riprodurre davvero. I miei occhi ti guardano. Forse sì, forse no. Forse ho 20 anni, o forse 40. Sono incinta, o forse sono un ragazzo, o l'amante del mecenate, o la mecenate stessa, o la madre di lui, ma sì, ma guarda, ma sembra proprio mia madre. Dicono con quel paio di occhi indagatori 60.000 ogni giorno a cercarmi la verità centimetro per centimetro. Ma forse avete un problema con la bellezza. Con la bellezza che non capite. Io con questi occhi ho visto tutto. Leonardo piange fino all'ultimo fiato di vita, i capricci del re sole, Napoleone Russale. Per 2 anni sono stata appesa nel cucinino di tale Vincenzo Perugia, in bianchino, che con la scusa di riportarmi nel mio paese mi aveva rubata. E al posto suo accusarono Apollinei. Eppure Pablo Picasso, al tempo, mi difendevano con il judo. E poi sono stata nei rifugi segreti contro le bombe naziste, mi hanno lanciato i sassi, l'acido e una volta pure una tazza. Ho il succo di pomodoro col colore mio oggi. Succede. Sotto di me, hanno detto un giorno, passandomi la GX, ce ne sono almeno altre 3 diverse che poi sono sempre io. Mi hanno messo i baffi e le sciarpe chi, con insulto annesso. Mi hanno riprodotta non so più quante volte. In ultimo, per salvare la terra, mi hanno tirato una torta in faccia. Dopo più di 500 anni vi guardo, vi sguincio, sorrido come la Gioconda e intanto mi domando, ma perché proprio io che a malapena ho un nome? Adesso per far vedere chi siamo, per farlo vedere soprattutto ai nostri ospiti, mandiamo, prego, potete mandare un piccolo video che abbiamo utilizzato la prima volta a Tartu, in Estonia, in occasione di una piccola premiazione che il museo ha ricevuto. Adesso vedremo. Aristocratico, intellettuale, patriota, la cui figura carismatica determinò un processo di aggregazione che portò alla realizzazione della commissione conservatrice di Terra d'Otranto, da cui appunto nacque questo museo, che aveva il preciso compito di raccogliere tutte le opere, in particolare il patrimonio artistico e archeologico, che in seguito alle leggi postumitarie era soggetto alla dispersione. la spesa per mettere una marcetta per tenerti sveglia a quest'ora del pomeriggio, sì, anche per far vedere un po' chi siamo e quello che facciamo. Questo è il video che ci ha accompagnati a maggio di quest'anno a Tartu in Estonia in occasione della premiazione della EMIA, è sostanzialmente questo European Museum of the Year Awards, dato da questa organizzazione europea dei musei che raccoglie 300 musei più o meno in tutta Europa, con il patrocinio del Consiglio d'Europa. E secondo diciamo questo riconoscimento ricevuto in quell'occasione, il Castro Mediano sarebbe un museo con una lunga storia in grado di mettere in atto nuovi modi per interessare pubblici più ampi possibili attraverso nuovi approcci alla museologia e alla curatela. Questa è la sintesi, insomma la motivazione era un po' più densa, ma questo per dirvi brevemente insomma come siamo considerati all'estero, ma non credo in Italia. I musei godono diciamo di una certa notorietà, sono delle istituzioni alla moda, diciamo così, nel panorama della pubblica amministrazione italiana, perché poi di fatto sono istituzioni pubbliche la maggior parte dei musei. Una notorietà e anche un entusiasmo che circonda, rinfocolati un po' anche dopo Praga, da questa nuova definizione che è l'ICOM, finalmente dopo anni di discussione ha licenziato questa nuova definizione di musei, che non vi leggo, la conoscerete senz'altro. Però voglio fare una considerazione partendo proprio da questa definizione, da questa nuova definizione di ICOM, per introdurre sostanzialmente, diciamo molto velocemente, il tema della giornata. Parliamo di futuro dei musei, no? Ecco, io credo appunto che questa definizione di museo approvata da ICOM in realtà sia per molti musei, per il 90% dei musei italiani più o meno, sia un'utopia assolutamente inconciliabile con le logiche della società contemporanea e con il sistema economico e le regole amministrative che regolano oggi i musei che li governano. E in realtà credo che si tratti davvero di un desiderio o di una utopia completamente, totalmente sganciata dalla realtà, direi quasi una velleitaria proiezione in un mondo ideale mai esistito per quanto riguarda la stragrande maggioranza dei musei, che forse mai esisterà. In realtà il museo esiste, almeno il nostro fare museo ci insegna questo: noi esistiamo in funzione della comunità in cui operiamo, della nostra comunità di riferimento, no? Direi che non esistiamo fuori da questa comunità. In realtà il museo, così come emerge dalla definizione di ICOM, si dovrebbe giustificare soltanto in rapporti di conflittualità o di radicalità con il sistema in cui oggi insiste. Noi sappiamo benissimo che questo non è possibile, perché sostanzialmente da questo sistema e da questo contesto istituzionale i musei traggono quel poco di risorse di cui dispongono, per cui di fatto è un desiderio davvero irrealizzabile, diciamo, nei fatti. E, come dicevo prima, appunto, soggiace a questa definizione di museo dell'ICOM una radicalità, diciamo, che noi non ci possiamo permettere, impegnati come siamo a ricercare quotidianamente invece il compromesso, no? A tutti i livelli, e quindi direi una definizione appunto che non tiene conto della vita, della realtà, della vita vera, diciamo, in cui che i musei conducono. Siamo istituzioni completamente immerse dentro logiche istituzionali incompatibili con le regole di gestione di un museo oggi. Siamo istituzioni completamente immerse dentro regole di un'industria culturale e dei consumi culturali, sostanzialmente che ci condanna ad una marginalità assolutamente povera di mezzi, di materiali finanziari e di intellettualità. Un esempio per tutti: la carenza di personale qualificato o le relazioni di lavoro almeno dignitose compromettono davvero ogni possibilità di esercitare un qualsiasi ruolo oggi all'interno della società, con autonomia. Sottolineo questo termine autonomia perché i musei dovrebbero essere autonomi prima di tutto. E io mi chiedo se avete mai provato a spolverare i reperti in una vetrina all'interno di un museo archeologico. Cioè, noi i musei, diciamo, la cosa più importante a cui i musei oggi manca è proprio il concetto di autonomia. E il discorso del personale, vi dicevo prima, mitigato, ma soltanto mitigato, da una precarietà al limite della legalità, o forse dovrei dire abbondantemente dentro la illegalità, perché il 90% dei contratti di lavoro che noi abbiamo oggi con i nostri collaboratori sono un'ipocrisia, sono assolutamente dentro appunto la sfera dell'illegalità. Sì, i musei sono di moda per qualcuno, per i pochi direttori mainstream dei grandi musei, alla continua ricerca di una visibilità mediatica che non si riflette mai in termini positivi, non incide mai in modo vero su una realtà invece fatta, come dicevo prima, di povertà di mezzi, di precariato e di marginalità difficilmente compatibile con una pratica museale, se non con una amatorialità o con un volontariato che si riduce a volte in una sterile, davvero sterile, imitazione dei grandi modelli museali, nazionali o internazionali. Ecco, io credo che pensare al futuro, per stare al tema di oggi, significa per noi piccoli e medi musei semplicemente avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Se dobbiamo guardare alla realtà della Puglia, per esempio, visto che parlavo prima di comunità di riferimento, la nostra è una realtà variegatissima, e questo è un altro tratto dell'identità del sistema museale anche a livello nazionale, e questo forse è un valore, la differenza, la varietà dei modelli, sia dal punto di vista contenutistico ma anche gestionale. Una varietà che le statistiche non riescono mai a fotografare fino in fondo, anche perché è distribuita in una geografia stratificata, composta di grandi città, di città medie, di piccole, di borghi distribuiti da Santa Maria di Leuca sino all'Appennino d'Arno. Ecco, una realtà appunto variegata in cui il 90%, 85-90% di questi musei non sono che collezioni archeologiche, in qualche modo diciamo realtà che è difficile davvero chiamare musei, e quindi da qui l'esigenza di chiamare le cose per come sono. Ecco, in questo che cosa significa da questa realtà, da questa geografia, da questa periferia, che cosa significa guardare al futuro? Ecco, allora in questo contesto, diciamo, la scommessa che stiamo portando avanti è una scommessa che stanno giocando tutti i musei della Puglia, non è una scommessa di tipo istituzionale, diciamo, viene dal basso, diciamo così. La scommessa è quella di costituire una sorta di comunità dei musei, una grande rete dei musei, una sorta di alleanza tra tutti questi musei, e per noi questo lavorare sulle reti ha significato soprattutto prendere nelle nostre mani la consapevolezza di non accontentarci delle cifre, dei dati statistici e della loro parzialità. Perché abbiamo capito che la realtà dei musei non va misurata, non è possibile misurarla, ma va esplorata attraverso misurata attraverso parametri quantistici, ma esplorata attraverso le storie delle persone che tengono in vita il patrimonio, non in quanto collezioni di cose, ma in quanto deposito di senso per la comunità residente e per il mondo. La nostra esperienza di lavoro sulle reti museali in Puglia è stato soprattutto questo, un lavoro sulle persone impegnate nel lavoro culturale e sul loro desiderio di riconoscersi come comunità. Musei che pensano insieme, che lavorano insieme, che insieme diventano motori di un cambiamento nella società in cui operano. Questo, per quanto ci riguarda, sono i musei del futuro. Questo, per quanto ci riguarda, è il futuro dei musei. Grazie. Grazie a Luigi De Luca, a cui anche ringraziamento per ospitarci in questa sede così bella. Allora, è vero che noi la conosciamo, molti di noi la conoscono, questa nuova definizione dell'ICOM, International Council of Museum, però se la regia magari la mette sullo sfondo, no? Ci rendiamo su questa versione in inglese, io provo a ridirla un po' in italiano, il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, è al servizio della società che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Allora, quando Pierpaolo Lala, che organizza questa splendida rassegna, mi chiese di mettere insieme il workshop con questo titolo, io ho pensato fin dall'inizio soprattutto di... Cioè, il mio scopo è stato quello proprio di evitare di ripetere tutte le liturgie classiche del dibattito sul futuro dei musei, al quale, insomma, ho partecipato in tante occasioni, spesso da spettatore, e dove veniva inflitto al pubblico quasi sempre, e probabilmente lo faremo anche oggi, ma non penso che ci riusciremo a sfuggire, soprattutto la retorica dell'eccellenza, che secondo me produce molto spesso, no, di fronte a una proiezione come quella che vedete, quasi tutti i relatori fondamentalmente sullo sfondo sembrano dire: beh, ma noi questo già lo facciamo, noi siamo resilienti, sostenibili, inclusivi, no? C'è questa sequenza di aggettivi che risuonano e che ormai quasi non hanno più nessun riflesso emotivo dentro di noi, perché sappiamo appartenere a un linguaggio che è quello del marketing, del piano della rappresentazione, e poi invece c'è chi con grande lavoro, no, poi ti riporta sul piano della realtà, come ho fatto poco fa Luigi, ti fa capire i due estremi di questo spettro emotivo tra piano della rappresentazione e piano della realtà. E poi questi panel tipicamente si svolgono anche un po' per dicotomie, cioè chiunque quando parla cerca sempre di mettersi da una parte dello spettro, no? Per esempio durante la pandemia, vi ricordate, virtuale e reale, oppure più curatoriale, più intermediato o più libero dall'intermediazione. Adesso me ne vengono in mente, c'è l'altro dibattito storico, quello tra i tecnodeterministi, no, che pensano di risolvere tutto con una soluzione tecnica, e i funzionalisti. Cioè c'è sempre poi questa visione molto, secondo me, molto limitata, che sfugge completamente invece dai problemi reali che abbiamo sentito, per esempio, adesso rappresentati molto bene da Luigi De Luca. E quindi il primo passaggio, secondo me importante, è stato coinvolgere persone che hanno uno sguardo molto obliquo e molto diverso rispetto a questo problema, come le persone che adesso magari presento, perché questo dovrebbe fare a un certo punto il moderatore, e che sono, che abbiamo qua. Maria Elena Colombo, di cui vedete il volume all'ingresso, l'ultimo libro bellissimo, Musei e cultura digitale, fra narrativa, pratiche e testimonianze, uscito per tipi di editrice bibliografica all'interno di una collana che si chiama Geografie culturali. Poi all'estrema mia destra c'è Giorgio De Finis, ecco, questo è uno di quei personaggi che uno chiama appunto per sparigliare un po' le carte, perché poi le cose le ha fatte in modi molto molto diversi rispetto al racconto dominante. E Giorgio De Finis, che attualmente è direttore artistico del Museo delle Periferie di Roma, ma è stato anche l'ideatore di un oggetto assolutamente fuori da ogni regola precedente, cioè il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, che tra l'altro, insomma, è al centro di questa candidatura che intravedete sulla maglietta che ha Giorgio, che con scritto UNESCO, e questo vi farà già capire qualcosa. E poi è stato anche il direttore per 18 mesi del Macro di Roma, no? Che è il Museo d'Arte Contemporanea del Comune di Roma, e che per 18 mesi è stato anche lì qualcosa di assolutamente rivoluzionario, poi ne parleremo per un po'. E, insomma, ecco, Giorgio è una persona la cui sola presenza qua dentro spesso determina l'assenza della presenza di qualcun altro, e questo già di per sé. Lo dico per esperienza diretta, cioè quando vado alle cose dove c'è Giorgio puntualmente so che non ci sono altre persone, no? Questo... e questo di per sé vi fa capire che siete già in un panel che prova quantomeno a non ripetere quel tipo di schema. Ripeto, non ci riusciremo, anche perché io sono immerso nel midollo in questa retorica da sempre, quindi riusciranno le solite parole. A un certo punto dirò nulla sarà più come prima, ma sono altre le cose proprio fanno parte del copione, ma mi perdonerete perché io non vengo dal mondo della museologia. Però, scusate, manca da presentare ancora una persona importantissima, che è Elisa Monsellato, che così adesso, siccome il moderatore a un certo punto deve tirare fuori dei termini brillanti, io definisco una next gen, quindi già sfugge a quel discorso proprio perché parte con un linguaggio diverso, che è quello che le ha permesso di fondare questa straordinaria idea che è Swap Museum, e magari anche portare un po' di energie e idee nuove all'ICOM, come ha fatto, perché anche lei è andata a Praga ad agosto, che è una cosa che io non sono ancora mai riuscito a fare, andare a Praga, ed è tornata con delle cose che poi ci racconterà. Anzi, io vorrei far partire proprio da Elisa questa chiacchierata, così ci racconta che cos'è per una persona della tua età, del tuo territorio, delle tue esperienze completamente nuove, l'International Council of Museum, che cos'è questo dibattito e come siamo arrivati a questa cosa che vedete qui alle spalle. Sì, così posso interromperla e molestarla durante la discussione. Si è acceso? Sì. Allora, grazie. Conversazioni per questa possibilità ogni anno di confronto fondamentale, grazie al direttore Venuta per aver demolito la definizione di ICOM, quindi inizierò con raccontarvi come siamo arrivati appunto a questa nuova definizione. Per chi non lo conoscesse, ICOM è il Consiglio Internazionale dei Musei, è un'organizzazione che coinvolge, che è composta da musei professionisti museali, quindi lavorano per immaginare strategie appunto da proporre ai musei e ai professionisti proprio nell'ottica della sostenibilità del patrimonio. ICOM dal 1948 è incaricato di definire cos'è un museo, quindi negli ultimi 78 anni sono state 6 le definizioni che si sono susseguite, 3 delle quali negli ultimi 20 anni, quindi ciò significa che siamo in un contesto altamente caratterizzato da una volatilità elevata, quindi da cambiamenti repentini, quindi ICOM cerca di stare dietro a questi cambiamenti, di adeguare la definizione di museo proprio per essere quanto più rispondente possibile alle esigenze delle comunità, con molte difficoltà. Dunque, l'ultima definizione è stata appunto approvata a Praga ad agosto dopo un percorso tribolato che parte nel 2018, 126 comitati nazionali che propongono ognuno una sua versione, una propria versione di museo, c'è stata una Roma da Bianca a Chiodo, quindi non si è riusciti a conciliarsi su un'unica definizione che potesse essere onnicomprensiva e accontentare tutte le visioni o comunque le aspettative rispetto al museo del futuro. Dopo 4 anni, finalmente a Praga, quasi all'unanimità, è stata votata questa definizione ed è, a mio avviso, la più interessante e innovativa delle altre 5 precedenti. Perché? Per la prima volta si esplicita, si palesa, senza mezzi termini, che il museo è sì chiamato a espletare le funzioni che noi tutti naturalmente gli associamo, no? Quindi la ricerca, la tutela del patrimonio, la conservazione, l'esposizione, è chiamato allo stesso modo, con lo stesso peso, con la stessa responsabilità a curarsi delle proprie comunità. Quindi se il museo inizialmente nelle altre definizioni veniva definito un ente al servizio della società, in questa nuova definizione finalmente si danno si individuano delle parole chiave. Delle parole chiave che ci indicano la strada verso una maggiore responsabilità sociale. Quindi il museo può contribuire a costruire lo spirito critico dei cittadini, delle comunità in cui opera, con una serie di strategie talvolta impercorribili per una serie di problematiche che appunto il direttore ci ha anticipato, però di fatto ha un ruolo sociale importantissimo. Quindi per la prima volta questo viene messo nero su bianco, viene esplicitato con una serie di parole fondamentali, a mio avviso, fondamentali perché poi sono le stesse parole che noi ritroviamo sin dal 2015 nelle attività che svolgiamo da ente terzo rispetto al museo. Quindi non gestiamo un museo, ma contribuiamo a dare corpo a questa definizione come professionisti esterni. Le parole che ho segnato sono queste. Allora, innanzitutto, per la prima volta si parla di interpretazione. Quindi finalmente viene sdoganata la cultura in mano a pochi, che viene univocamente trasferita al resto del mondo, no? Quindi oggi le collezioni sono interpretabili. Il caso emblematico che viene citato sempre in queste occasioni è quello di George Floyd, l'indomani dell'omicidio violento. I musei da Minneapolis fino al resto del mondo hanno preso una posizione rispetto a tanta violenza, no? Quindi da quel momento in poi abbiamo iniziato ad ascoltare rivedere soprattutto in Europa le collezioni con lo sguardo decolonizzato. Per la prima volta, o comunque una delle prime volte, collezioni museali sulle quali nessuno aveva mai messo bocca vengono messe in discussione. Allora, vogliamo parlare della violenza degli stati del colonialismo dell'Ottocento? Lo vogliamo rendere attuale? Vogliamo fare in modo che i musei contribuiscano a costruire uno spirito critico rispetto a quello che è successo a Minneapolis? Quindi i musei hanno una responsabilità sociale e per me è fondamentale che il concetto di interpretazione e di mediazione al patrimonio venga inserita in una definizione che va a modificare l'articolo 3 dello statuto di ICOM e l'articolo di tutti i musei del mondo, perché questa definizione viene acquisita automaticamente dal MoMA di New York, ma anche dal Museo della Ceramica di Montefiore. Quindi tutti sono tenuti ad adeguarsi. Quindi questo è il primo punto per me fondamentale. Dopodiché passiamo al concetto di accessibilità, quindi anche qui si parla per la prima volta in maniera esplicita di accessibilità cognitiva, sensoriale, economica, tutto ciò che consente alle persone di accedere al valore e al contenuto culturale, cosa che prima probabilmente non era così scontata. Parliamo oltre all'accessibilità e all'inclusività, di promozione della diversità, della sostenibilità e soprattutto, a mio avviso, come nuova generazione di professionisti, si parla di professionalità. Quindi si pone un accento esplicito, dichiarato, sul tema del lavoro culturale. Vogliamo che i musei, proprio per la responsabilità che hanno, siano gestiti da persone con competenze, quindi con professionalità, che non sono un dopo lavoro di associazioni di volontariato o il fardello attribuito ad un funzionario che probabilmente nel museo non conosce poco. Quindi il tema della professionalità è un altro aspetto dirompente per lo status quo, cioè quindi per il punto di partenza è dirompente. Dopodiché, altro tema su cui come arriva con molto ritardo, è il tema della partecipazione. Noi lavoriamo dal 2015 sotto la luce della Commissione di Faro, e quindi fa un po' specie che un'istituzione come questa, di cui io sono rappresentante per la Puglia, quindi in maniera critica mi esprimo rispetto a questo, dopo tanto tempo rispetto appunto alla Convenzione di Faro acquisisca l'importanza nella propria definizione del tema della partecipazione, e lo fa nel 2022, e quindi anche questo è innovativo proprio per il punto di partenza, che non prevedeva nessuna di queste parole che vi sto raccontando. Il tema della condivisione, il tema del museo come bene di relazione, bene relazionale, bene comune, anche questa è una novità. All'interno della, cioè si va oltre il paradigma della didattica museale. Allora, chi entra nel museo deve vivere un'esperienza, deve acquisire informazioni e valori tali da attivare una riflessione interiore e una condivisione collettiva. Quindi costruiamo uno spirito critico. Queste sono, a mio avviso, le parole più importanti di questa definizione e che definiscono un po' il passaggio. Quindi per pochi questo modo di operare già è attivo, per molti si spera che nel futuro appunto quindi quando Luigi dice, cioè si può leggere in due modi, no, se non questa definizione, cioè da un lato velleitario, no, perché rispetto ai mezzi che vengono messi a disposizione sicuramente dirlo tra virgolette non costa nulla, dire che lo facciamo appartiene al piano della rappresentazione di cui parlavo prima, provare però invece a farlo rappresenta costruire una tensione ideale in questa direzione, che è quello, mi sembra che sia più la tua posizione. Esattamente, quindi noi come esterne, quindi come professioniste esterne, con un'organizzazione esterna, abbiamo cercato di fare pratica della Convenzione di Faro, quindi noi siamo figli della Convenzione di Faro, e con il processo di Swap Museum cerchiamo appunto di dare senso pratico, quotidiano a queste parole fantastiche. Ecco, su questo abbiamo un piccolo video che racconta brevemente quello che è, che facciamo. Quindi ragazzi, quindi se si può lanciare, grazie. Il progetto inizialmente poteva sembrare un'utopia. Non solo si proponeva di avvicinare i giovani al luogo della cultura, ma voleva iniziare a farlo da un territorio particolare, che è quello della Puglia, nel profondo sud Italia, dove le indagini sulla relazione tra giovani e cultura mostravano che il 70% dei ragazzi non aveva mai visitato un museo e il 60% di loro non aveva mai letto un libro. Affrontare questa problematica partendo dalla nostra regione ci ha dato la possibilità di sperimentare tanto e di affrontare la sfida di netto. Il punto di partenza è stato la creatività del team, che ha proposto una serie di attività non specialistiche per avvicinare gli adolescenti, come ad esempio la creazione di una playlist musicale ispirata alla collezione di un museo, o la raccolta della memoria storica degli anziani di un paese, o ancora la realizzazione di fumetti ispirati alle opere più belle di un museo. I ragazzi che hanno aderito alle nostre call lanciate sui social hanno cambiato totalmente la loro percezione di musei, siti archeologici e castelli, che sono state le nostre e le loro basi operative. I luoghi della cultura, se fino a quel momento per loro erano realtà quasi impenetrabili, con contenuti da vedere ma non toccare, con Swap Museum sono diventati per loro dei luoghi di ispirazione e di creazione, luoghi in cui coltivare la propria creatività. I ragazzi hanno scoperto che questi luoghi sono vivi, sono scatole di memoria che conservano storie da fare proprie e reinterpretare, e che soprattutto possono rappresentare il centro della vita sociale. Dall'altra parte, i musei si sono rinnovati attraverso i loro occhi. Gli Swapper, così chiamiamo i ragazzi che rispondono alle nostre iniziative, sono poi premiati con dei benefits da spendere in cultura, buoni per l'acquisto di libri, voucher per cinema o teatro, concerti, o ancora biglietti per viaggi studio all'estero. Tutti i premi volti a innescare un circolo virtuoso in cui la cultura premia con altra cultura. Questa è la nostra idea, questo è il nostro Swap. Dal 2016 ad oggi, Swap Museum ha raggiunto 61 istituzioni museali della nostra regione, è sostenuto da 14 aziende e conta 670 adolescenti che hanno trascorso 22.000 ore negli spazi museali. Ecco. Una cosa da aggiungere è che il suo museum, tra le altre cose, tra gli altri riconoscimenti, ha vinto proprio quest'anno uno dei premi europei per il patrimonio culturale, Europa Nostra, nella categoria coinvolgimento e sensibilizzazione delle persone. E io credo che questo davvero rifletta come questo progetto, così come anche altri, progetti che nascono più o meno dalla stessa generazione. Viene in mente Art Away, no? Che nasce a Torino e anche lì sconvolge un bel po' di cose. Sono dei game changer, prometto che è l'ultimo anglicismo che uso. In che cosa Swap Museum cambia la regola del gioco, Lisa? Allora, noi siamo partiti nel 2015 quando il tema della partecipazione ancora non era dibattuto, ecco, quindi le regole del gioco cambiano nel momento in cui chiediamo agli archeologi, agli storici dell'arte, quindi ai gestori dei musei, di affiancare alle didascalie, altre didascalie create dai ragazzi. Quindi cambia le regole del gioco nel momento in cui dà valore a un punto di vista sulla collezione, quindi il tema della mediazione ritorna, no? della partecipazione. Quindi creiamo nuovi dispositivi di fruizione, però insieme ai ragazzi, mettendo al centro il loro punto di vista. Quindi un'opera può essere interpretata, può far sì che, cioè può generare, sollecitare emotivamente il fruitore al di là del contenuto storico. Quindi cambia le regole del gioco per questo, cambia le regole del gioco perché appunto noi entriamo come entità terza nei musei e quindi cerchiamo di supportare i piccolissimi musei, tanti musei pugliesi che non hanno spesso né le risorse né le competenze per comprendere gli scenari, comprendere i pubblici, analizzarli e cercare di trovare delle soluzioni. Quindi in questo senso è innovativo, è stato innovativo. Quindi ora diciamo che siamo accompagnati da tantissimi altri progetti sulla partecipazione altrettanto interessanti ed efficaci. Però nel 2015 siamo praticamente state tra le prime a lavorare in questi termini, infatti è un progetto molto citato nelle tesi, negli articoli, proprio perché secondo me è in discontinuità rispetto ad una narrazione delle collezioni eterodiretta, diciamo, universale. Beh, infatti mi ha ricordato un po' quello che agli esordi del fenomeno del podcasting cominciarono a fare gli studenti di architettura a New York, che andavano al MoMA e fecero il podcast delle audio guide alternative, non so se ve lo ricordate, se ne parlò all'epoca, naturalmente con, diciamo, quasi con fini di blasfemi, no, nei confronti dell'istituzione, e quando si parla di blasfemia non posso che rivolgermi a Giorgio. Perché? Perché nella disastrata Roma del 2018, in cui la cultura era ridotta ai minimi termini, forse ancora di più rispetto agli anni precedenti, in cui ogni tanto magari succedevano le notti bianche, no? C'era qualche riverniciata, qualche momento, diciamo, di lustrini e paillette, che quasi sempre poi coincidevano con la preparazione di campagne elettorali per far diventare i sindaci premier. Questo era più o meno quello che era successo prima. Poi c'è stato un momento in cui abbiamo avuto un improvviso crollo della fruizione culturale. Ricordo che ci fu un anno che l'estate romana sparì e io mi infilavo segretamente al Teatro Valle, che era stato occupato, dove succedevano delle cose, e per il solo fatto che succedessero io mi infilavo là dentro. E poi a un certo punto, vabbè, arriva questo assessore Luca Bergamo, arriva, si pone il problema di cosa fare, per esempio, del Macro, che era questo oggetto che praticamente era diventato un luogo come uno stadio dove ogni tanto c'è un concerto rock, no? Quindi arrivava una mostra, tu dicevi, ma hai già visto la mostra della Pixar? Ah sì, l'ho vista a Milano, ah sì, adesso arriva a Roma, no? Succedeva questo, seguivi le mostre come se fossero degli oggetti, a un certo punto li davano al tuo cinema, e il Macro era diventato uno di questi, di queste sale cinematografiche, diciamo. Tra l'altro alcune mostre molto belle, però adesso non parlo del merito, parlo un po' del metodo. E succede che la direzione artistica del Macro viene data a Giorgio De Finis, che lo trasforma in un luogo che definirei situazionista, nel senso che fondamentalmente i famosi percorsi, questa è un'altra delle parole che ritorna sempre, che tipicamente, no, dal punto di vista curatoriale, sono imposti dall'alto, venivano lasciati liberi, e diventava questo luogo un luogo di scoperta, di sorpresa, anche a volte di repulsione, ma possiamo dirlo tranquillamente, ma anche di straordinaria attrazione curiosità. Anche su questo abbiamo un piccolo video, non so se vogliamo farlo partire prima, così diamo delle immagini su cui poi magari dopo Giorgio racconta questa stagione stupenda, secondo me, che è durata per soltanto 18 mesi. Scusa, però la domanda, cos'è portato al mazzo? Me stessa. Finora non mi dispiace, ma quando comincia a dispiacere. Comunque sto chiudendo i polsi, questi due di lavaggi sai lì, la città si chiede le punte. Certo, non c'è la tutta. C'est la standardisation. Ouais, les réponses sont sbagliate. Les domandes sont sbagliate. Questo museo qui, in questo momento, credo che sia l'unico che ha in questo senso di stare accogliendo tutti questi tempi della cultura. Quadro, artista, cerchiamo tutto e... Das Museum für den Studienort und den Labor. Das Museum wird ein neuer öffentlicher Raum des Wissens. Das Museum wird nicht berühren, der Ausdruck, der Ort des Narzissten und des Künstlers. Allora, io sarò sempre, no? Parlando di bestemmia, no? Chiaramente è una, vuole essere una provocazione, ma il vero elemento blasfemo non era tanto l'esistenza di queste realtà, che a Roma già esistevano, ma era metterle a sistema in una sede istituzionale, no? E questo è il grande passaggio, secondo me, fondamentale di, quel, di quell'era, e adesso però magari Giorgio ci racconta come ha funzionato e che tracce ha lasciato nella città. Sì, intanto grazie. No, vorrei velocissimamente riagganciarmi alle cose che si sono dette fino a qui. Però spiegare un attimo velocemente, diciamo, io sono stato chiamato a dirigere il Magro senza bando, senza nessun... diciamo, non sono un museologo, sono un inventore di musei, ma all'epoca ne avevamo inventati solo due. Uno si chiama Museo dell'Arte dell'Altrove, ed era l'idea di portare un museo di arte contemporanea in uno slam, quindi di unire il punto più alto e il punto più basso della città. E poi, se c'è tempo, di questo progetto ne parlo, perché è ancora vivo, vegeto e lotta insieme a noi, quindi mi fa piacere raccontare. Però, diciamo, il macroasilo forse è più pertinente, diciamo, almeno rispetto alle cose che si sono dette fin qui. Diciamo, intanto perché assomiglia molto più che a questa definizione a quella di Kyoto, che io adoravo, ma Icom Italia invece l'ha buttata nel cestino. Ma noi di fatto la praticavamo in qualche modo, cioè, quella definizione parlava di una missione di spazi democratizzanti, cioè si poneva come obiettivo, diceva, i musei sono luoghi democratizzanti, cioè luoghi dove si pratica la democrazia. Ora, in una società post-democratica dove si pratica sempre meno la democrazia, quei luoghi per me erano particolarmente importanti, e io ho sempre considerato il museo una città in miniatura, cioè una sorta di esperimento urbano sotto vetro, con alcune diciamo riduzioni di attrito, di conflitto, ma pur tuttavia sempre un luogo che rappresentava la città, che in qualche modo provava anche a farla funzionare appunto nel modo democratico che ci piacerebbe che la città fosse, no? E che lo è sempre meno. Sappiamo che gli spazi sono sempre più spazi privati, sappiamo che, no, almeno nelle città come Roma, insomma, tutti veniamo espulsi, diciamo, no? progressivamente dalla stessa città che rischia di diventare, come dire, distopicamente vuota, diciamo, e quindi per me il museo dovrà essere pieno. Ma pieno, a parte questa premessa, diciamo, politica nel senso nobile del termine, diciamo, rispondeva anche a esigenze pratiche di quelle di cui parlava Gigi, cioè io sono stato invitato a dirigere il MAIRO con un budget di 400.000 euro l'anno, che sono poco più di 30.000 euro al mese, cioè poco più di 1.000 euro al giorno, da cui togliere gli stipendi di tutto il personale. Cioè, voi capite, il Museo d'Arte Contemporanea della capitale d'Italia c'aveva poche migliaia di euro da gestire per fare cose, no? L'altro museo che spesso viene impropriamente associato al MAIRO, che è il Maxi, ha 1,2 milioni al mese, qualcosina in più, diciamo. Allora, cosa fare con questi 4, 5, 6 mila euro al mese? Cioè, questa era la questione anche, no? Appunto, fare le mostre. Io tra l'altro ho tolto il biglietto, quindi diciamo ridotto anche le entrate drasticamente. Perché volevo fosse uno spazio per tutti. Allora, c'erano tre soluzioni. Uno, fare l'affittacamere di mostre che hanno in mano, cosa che fanno l'80% dei musei. Diciamo, non possono fare altro. Il buon manager dice: aspettiamo seduti qui che qualcuno ci porti una cosa. Per qualcuno spesso è una galleria, una fondazione, qualcuno che ha interesse a fare un passaggio nel museo per valorizzare quello o quell'altro artista, diciamo, far crescere questo mezzo punto di coefficiente di mercato. E giustamente il buon manager accoglie la mostra, che spesso è anche bella, cioè non dico che sono cose brutte, però così non è uno spazio pubblico, è uno spazio, diciamo, privato, no, cioè, l'altra ipotesi più onesta è quella, quasi c'era arrivato Gigi, cioè chiudiamo gli musei, non ci sono. Cioè, no, uno dice, guarda, con questi soldi il museo lo chiudo, metti un bel catenaccio e dici si riapre quando ci saranno, insomma, no? L'ipotesi che ho provato io è stata quella di dire, va bene, non ci sono i soldi, apriamo le porte. Questa apertura delle porte per me è anche fondamentale per quello che penso rispetto al mondo degli artisti. Cioè, viviamo nell'epoca dell'arte espansa che spaventa milioni di artisti, 5 continenti, no? Il museo blinda tutto, fa entrare col contagocce, no? Prova a rassicurare, come dire, questo sistema dell'arte che scricchiola da tutte le parti sotto la pressione di questo tsunami, prova a rassicurare, ma quello che entra è arte con la maiuscola, sono le cose importanti, tutto il resto, comunque nascondiamo, diciamo. Io volevo che questo mondo entrasse nel museo, cioè che il museo, invece di lavorare a far sparire gli artisti, lavorasse a farli apparire, quindi che ci fosse una specie di porta girevole. Ora, questa cosa che mi piaceva fare era anche funzionale a farlo funzionare il museo, perché questa porta girevole portava, diciamo, un palinsesto di attività che in media al MAIRO asilo erano di 500 al mese. Allora, tu puoi fare un museo con 500 eventi al mese con 5.000 euro. Per me questa è una specie di miracolo, c'è la moltiplicazione dei pani che esci, no? E come lo fai? Lo fai perché ciascuno dona a quello spazio pubblico che diventa per me uno spazio del comune, dona un po' della sua professionalità, non è una parola che amo, ma diciamo che per capirci, no? Cioè, io so fare questo, lo porto e sto qui un'ora, lo regalo, se sono, diciamo, uno studioso posso fare un lezio magistrale, se sono un artista magari sto 7 giorni nell'atelier, realizzo un quadro da zero, no? E permetto a tutti di capire come nasce un'opera d'arte, chiedermi perché fa così, cioè come dire, interagire in questa triangolazione pubblico, artista, opera, oppure altre cose. No, guarda, questo progetto ci ha permesso alla fine di far diventare quello spazio vuoto, che è tornato vuoto, ma per una forte volontà di farlo tornare vuoto, cioè non è un errore, non è l'incapacità di chi viene dopo, che non è capace di fare i numeri del macroasilo, che erano in 14 mesi di attività 330.000 visitatori, diciamo, ma era la volontà di chiudere il liceo per farlo tornare a quel luogo elitario, chiuso, di addetti ai lavori, dove come ostile io direi, ecco, il macroasilo non è che fosse col cucchiaino omogeneizzato, era un museo che faceva girare la testa sia per la quantità di cose che c'erano, sia perché chiedeva allo spettatore di essere emancipato, cioè non dava il museo, non metteva nessuna etichetta per scelta. Cioè, questa pratica di aprire la porta vuol dire che noi, come dire, invitavamo tutti gli artisti che si definiscono tali, questa è un po' la formula che ha fatto accapricciare tanti, ma poi si può tornare, diciamo, a portare un progetto che noi più o meno valutavamo e mettevamo nella giostra. Allora, siccome il museo non metteva leggi sulle cose che accoglieva, perché ciascun protagonista era il museo in quello spazio-tempo che il macro asilo gli concedeva, ecco che c'era una certa fatica a seguire le cose. Chi sta ascoltando sta dicendo la verità, sta dicendo una cosa vera, oppure perché ieri ho sentito un altro che diceva un'altra cosa, e questa pure è interessante se pensiamo alle definizioni. Cioè, lo sforzo di definire è fondamentale, ma è uno sforzo di Sisifo, cioè arriviamo su con la pietra, abbiamo fatto questo, io però poi, se mi permette, te la butto giù, perché non la scrivo io la mia, e poi la butta giù Paolini, perché questo è il gioco, cioè non c'è il gioco che si arriva e si scolpisce nel marmo, no? Noi avevamo al magazzino una stanza, si chiamava la stanza delle parole, il gioco era ogni parola 10 esperti che la declinano con 10 possibili definizioni, disciplinare, di posizionamento, quello che vuoi, cosa si capiva lì? Proprio questo, cioè, no, che ognuno si sforza di chiarire le parole che usa, di chiarire no, le cose che studia, ma arriva quello dopo e sposta il paletto, no, e tu questo lo devi accettare, no, quindi diciamo questo magazzino era un museo anche molto faticoso dal punto di vista di chi lo frequentava, perché lo scopo era farlo uscire, non con mal di testa, ma perlomeno con tanti dubbi in più. Io dicevo un attimo. Sì, no, grazie Giorgio, avevi accennato prima al Metropolis, di cui abbiamo, che è un'altra tua creazione precedente, assolutamente anti, non solo non istituzionale, ma direi in origine anti-istituzionale. Se la regia ha un contributo, ci può far vedere qualche immagine senza audio su cui possiamo parlare, che è, ha posto un po' anche le basi del discorso macro, no? Sì, lo, in tanti modi, sì, era il mio unico biglietto da visita all'epoca, diciamo. Cioè, ma, quello del Metropolis. Sì, il Metropolis è una popolazione abitativa a Roma, diciamo, 200 migranti e precari senza diritti, senza casa, che hanno occupato l'ex salumificio della Ferrucci. Gigi ci è venuto a trovare all'inizio e portò una mostra qui, e la difficoltà fu portare le opere che erano presenti al Mamma in un altro spazio dove improvvisamente non erano più il Mamma, no, diventavano le opere d'arte. Il Mamma è una specie di barricata a difesa di questo spazio, è un museo abitato perché prova a ripartire dal via ai tempi delle grotte di Lascaux, quando arte e abitare stavano insieme, totalmente ricoperto di lavori, alto, basso, anche qui da Pistoletto in giù, con l'idea da una parte di proteggere questa comunità che deve essere sgomberata. Ancora oggi il Metropolis è il primo nella lista degli sgomberi della prefettura di Roma, dall'altra anche invece per contrastare l'effetto enclave, che è uno spazio che si deve proteggere, quindi chiudere la porta, no? Rischia, cioè quello di diventare una prigione. Allora il museo, che ogni sabato si apre la città al mondo, diciamo in qualche modo, come dire, no? Permette alla comunità di Metropolis di avere relazioni, di avere incontri, quindi anche di sorprendere, di far capire questo, di far immaginare una città diversa. Per me tutto il MAM è un'opera unica, anche un'opera corale, ed è soprattutto non solo la collezione o questo grande mosaico a scala urbana, diciamo, di opere, ma è proprio l'immagine di una città diversa che lì appare, diciamo, in qualche modo, no? Cioè, chi va a cercare l'occupazione abitativa entra e rimane a bocca aperta perché è circondato da migliaia di opere, chi cerca un museo trova i bambini rom che corrono no? Tirando calci a un pallone, e le donne che stendono i panni. Quindi, diciamo, questo effetto di spaesamento secondo me è molto importante anche per far sì che le nostre categorie, cioè quei cosiddetti pregiudizi che abbiamo, no? Vengano un pochino, c'è un po' l'effetto Charcot, quando questo maestro di Freud voleva ipnotizzare qualcuno, si raccontava che metteva sul palco due sedie, chiamava una povera vittima dal pubblico, non vi preoccupate, non lo faccio, e con una mano indicava la sedia e con lo sguardo un'altra, e in questo momento di incertezza, tac, fregava il malcapitato. Ecco, io vorrei che chi entra nel Metropolis, come dire, no, c'è l'idea che i rom sono quelli che rubano il portafoglio, per un momento non gli passasse più. E funziona, lo dice uno che l'ha scoperto tardi, purtroppo, però insomma adesso comincio un po' a frequentarlo. E allora, io per fare un po' il passaggio, magari anche un po' il nostro sguardo sul mondo e tutto questo, no? Prendo la parola della definizione aperti al pubblico, no? Che secondo me Giorgio ha incarnato con i suoi progetti molto, molto chiaramente. Secondo una persona o un'altra, le persone vengono sempre citate a tutti i panel sul futuro dei musei, a volte c'è anche, a volte manda dei contributi video. Stavolta mi limito a citare Jeffrey Schnapp, che insomma, dirige il Meta Lab, insegna queste cose, insegna Digital Humanities all'University, cioè per molti, no? Insomma, anche una stella cometa in tutti questi temi. Il non si può più ricomprendere, dice Jeffrey, l'esperienza all'interno di una visita, i cui termini sono dettati da un soggetto astratto, indiscutibile, che ne sancisce i vincoli spazio-temporali, l'inizio e la fine, no? E io qua ci vedo anche un po' la porta girevole, se ci pensi. Il museo genera un'esperienza continua e sarà un successo se a partire dalla visita, ma anche prima, potrà generare percorsi individuali del fruitore, in rete e non, percorsi che quindi, proprio perché nascono non dal significato universale, ma dal senso individuale delle vite di ciascuno di noi, la famosa dimensione relazionale, no, di cui parlava anche Lisa, non possono essere capiti ex dunc dall'inizio da un curatore tradizionale. Cosa vuol dire che sparisce il curatore? No, è che questo è il pezzo, però, di professionalità si deve, diciamo, alimentare anche di queste nuove funzionalità. Allora, siccome lei ha scritto cultura digitale nel titolo del libro, come era? Musei e cultura. Musei e cultura. Non si ricorda più il titolo del libro. No, non lo ricordo. Cioè, allora, adesso potremmo anche evitare chi ha veramente scritto quel libro. Come? No, che non funziona, anche bello, non può neanche replicare. No, ok. No, mica affrontato. Allora, musei e cultura digitale, narrativa, pratica e testimonianza. Oh, beh, allora l'ha fatto veramente. In che cosa la transizione digitale abilita, accompagna o magari anche ostacola questo processo? Avete fatto vedere il pigettino di giro, però innanzitutto il digitale secondo me è un po', c'era tutta la dimensione digitale, adesso diciamo chiamiamolo digitale per semplificare, un po' ha creato quel senso di disagio che propone Giorgio, no? Nel senso che è stato per lunghissimo tempo assolutamente osteggiato. Leggelo. Ce l'ho, grazie. Assolutamente osteggiato perché poneva delle domande diverse. cambiava il paradigma per cui l'aula dell'opera all'interno del museo senza avere un diaframma di separazione, perché la casa non emita la stessa opera, ti perdi l'atmosfera. Ma soprattutto, secondo me, quello che ha cambiato il digitale, per questo ha creato tanta resistenza, è stato che ha dato la parola a tutti, ha fatto circolare per tutti, in qualunque forma, in qualunque modo, le immagini. A te ti sembrano? Moderatore che fa le foto. Dai, mi distrago. Secondo me, io alla fine ho capito che tutta quella resistenza veramente aforistica nei confronti di tutto quello che era digitale era, da un lato, che era poco rassicurante, perché avevamo le domande ma non le risposte, dove andava questa cosa, cosa serviva, chi l'avrebbe governata, perché ancora adesso in alcune cose sono assolutamente col direttore, mancano proprio le competenze, ma la rassicuro, veramente in mozzi, cioè dal piccolo al grande. Quindi un po' ha creato questo improvviso senso di disagio a tutti i livelli del museo, perché di quel mondo nessuno sapeva niente, tant'è che poi il digitale è stato giusto apposto, non integrato al museo, solo adesso appunto, forse dopo un po' di anni, no? E mi sono trovato a fare visite tanto tempo fa, forse è una serie di eventi che hanno costretto a fare un'esperienza, forse c'è un processo di maturazione anche rispetto a questi temi, cioè il digitale a cosa ci serve, chi se ne occupa, e è in relazione ai pubblici secondo me, perché in realtà la varietà di professionisti o di competenze, quanto è professionisti, però la varietà di competenze rappresentata nel museo, in quando invece dal punto di vista legale e amministrativo comprendiamo due, tre ruoli proprio a stare larghi, dovrebbe essere specchio delle sue funzioni e della sua capacità relazionale, per cui è ovvio che un ricercatore che è ricercatore da tutta la vita avrà un suo linguaggio, una sua competenza e una sua diciamo, capacità di andare a fondo verticalmente, ma proprio per questo deve servire chi si occupa di interpretation, cioè di capire in quel racconto verticale cosa porto a galla per tutti per rimetterlo a terra, adesso banalizzando molto il meccanismo. E perché in alcune dimensioni questo può essere trasversale, soprattutto perché quel contenuto va continuamente rinegoziato e cambiato, che non cambia solo la definizione a me ogni tanto sembra un po' rincorre, un po' mette sulla lapide questo è veramente accaduto, un po' mette nel panico quelli che ancora quei temi non hanno potuto affrontare, però anche qua è un po' una foglia di fico fragilissima, nel senso dal punto di vista di quello che... Siamo nel paradosso totale, perché in questo paese per tanti versi, ma per i musei tantissimo, perché la formazione tradizionale non forma per tutte le faccettature che diciamo Elisa è così, perché Elisa che è diventata così, non perché ha fatto un percorso, l'ha guidata a essere così. Io pure, più lungo e forse un po' più variegato, ma insomma... perché l'ho fatto io, però la formazione non riesce ancora a concepire a livello accademico che esistano delle ibridazioni necessarie in alcuni percorsi, antropologia, sociologia, ma anche digitale, non preso dal punto di vista dei bit, ma preso dal punto di vista culturale, e rimane quindi una formazione accademica che in realtà non è abituata a avere la funzione, rimane uguale a quella universitaria, se sei destinato al dipartimento di archeologia forse va bene, sì, le domande anche. Se sei destinato al museo no, tra università e museo forse bene, che cominciamo a dirci c'è una differenza, il museo è aperto al pubblico e con tutte queste caratteristiche, quindi la formazione così, i concorsi che selezionano i professionisti che poi devono lavorare nei musei pubblici ce li abbiamo presenti, hanno in mente un paio di figure piuttosto semplificate, è un processo di condizionamento, cioè di selezione, insomma un po' anche quello mi lascia abbastanza perplessa, e quindi mancano tutta una serie di tasselli in più, su questo io siamo tutti convinti, soprattutto insomma chi fa parte, chi va provenendo da un certo ambiente, che il pubblico sia quello più adatto a rappresentare la comunità, in questo momento non diciamo non è vero. Perché, perché il privato, e alcuni musei privati cioè, che rispondono al diritto privato, in cui il patrimonio rimane pubblico, si sono certamente dati una chance in più di essere più snelli, più attuali, più capaci di assorbire le novità, più capaci di cercare finanziamenti, più capaci anche poi di adoperarli, perché nel momento in cui ti arriva un finanziamento corposo e poi bisogna anche lavorarli quei soldi, no? E quindi ci siamo di fronte a un momento in cui paradossalmente il privato, che in alcune circostanze, cioè chi ha fondazioni, no? Quindi un patrimonio pubblico gestito da una fondazione di diritto privato, che riesce a interpretare dei livelli di eccellenza dove gli altri non possono proprio arrivare. In realtà condivido pienamente il malessere e diciamo anche il senso di sfiducia. Infatti i musei statali che abbiamo presenti, che sono riusciti in qualche modo a lasciare un segno negli ultimi, diciamo, due mandati di direzione, sono quelli che avevano un minimo di autonomia e che quindi sono riusciti, semplicemente hanno avuto la chance di uscire da questi gangli, sia nella scelta di cooperazioni terze contribuite, sia l'altra questione è come si fa ad avere all'interno qualcuno che si relazioni con tutti i pubblici quando la questione attributiva è quella che abbiamo tutti presenti. Perché, infatti, te l'ho volato nell'orecchio, perdonami, mentre parlavi tu, da un lato è, come dire, è dal punto di vista etico, come paese, assolutamente ingiusto riconoscere un tipo di attribuzione con la quale, ad esempio, la città dove vivo io neanche mangio, ma proprio non uno. Dall'altro questo dà luogo a un circolo vizioso, cioè chi si può permettere di fare quel lavoro, chi non ha bisogno dello stipendio per lavorare. Quanti quindi, talenti ci stiamo perdendo? Quelli un pochino meno testardi di me, anche forse meno fortunati, però sappiamo dire che sono tanti, anche perché su questo io sono contraria, anche se ti aiuto a gestire un altro punto retorico, della teoria dell'eccellenza. Non è che sempre uno deve essere capace di lavorare 20 ore al giorno, di andare avanti con 2 euro, di essere comunque informato, che viaggia. No, basta anche di meno. Basterebbe anche di meno. Sì, guarda, io in realtà la retorica dell'eccellenza è una delle cose che volevo dire nella mia rotolante introduzione come uno dei grandi ostacoli alla comprensione dei problemi in questo settore. Prima di iniziare un micro giro, secondo giro, visto che ci siamo andati inesorabilmente lunghi con i tempi, il tempo è tiranno, eccetera, eccetera, che perdo la diretta, vorrei chiederti un'altra cosa, Maria Elena, e cioè questa idea del ruolo della rete, no? Cioè, questo nuovo direttore del Museo delle Civiltà di Roma, un grandissimo progetto che sta per partire, Andrea Viviani, quando era al MADRE, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Napoli, l'ha fatto secondo me un grande lavoro. Sì, hai ragione. E lui diceva che comunque il museo non può esimersi anche dal costituire un archivio, uso le sue parole, un archivio vivente, incrementale, costantemente accessibile. Ci sono alcuni dei concetti che sono qua, però c'è una parola in più che è archivio. È vero che c'è conserva tra le parole chiave dell'icon, quindi mettetele in fila, no? Guardate che è dirompente. Conserva un archivio vivente, incrementale, costantemente accessibile. Io, da persona che studia media digitali, dico: cosa c'è di meglio della rete per rimuovere gli ostacoli tra pubblico e patrimonio? E lei parlava giustamente di resistenza. Si sta un po', diciamo, riducendo questa resistenza? Si sta facendo strada questa idea dell'archivio vivente? Sì. Nel senso che finalmente, secondo me, ad esempio, i concetti di prima, durante, dopo la visita sono abbastanza chiari, insomma, del fatto che probabilmente una percentuale di visitatori minima si potrà venire a visitare, ma la stragrande maggioranza invece non verrà mai, e l'unica dimensione nella quale posso venire in contatto con il tuo patrimonio è la rete, e secondo me è anche doveroso. Quindi metto a disposizione anche di chiunque non sia in grado, per mille ragioni finanziarie, fisiche, di tempo, di venire a vedere il tuo patrimonio. Poi io sono sempre dell'idea, lo dico sempre, però è una deformazione che ho, comunque tipo CSI, ma che si desidera solo quello che si vede, quello che si conosce, senza conosci è difficile che ti venga in mente di andare a trovare qualcosa che non sai neanche essere esistente, no? E quindi la rete secondo me è l'unico luogo, vedo ancora, cioè vedo un movimento di minore resistenza e anche alcuni picchi di balsamissimo entusiasmo. Perché dico balsamissimo? Perché adesso è un momento in cui, ok, dobbiamo fare tutti quanti le app, dobbiamo fare tutti quanti un database, però non si pensa per chi, con quali parole di ricerca. Ecco, c'è un momento che adesso fermi tutti, magari prima di fare questi progetti. Diciamo che c'erano evidentemente i soldi per fare il database, adesso c'era. Sì, ad esempio, dicevo, pensavo per tutte le parole di quanti, vorrei veramente fare, Antonio, lavoriamoci, sapere quanti soldi sono stati spesi inutilmente per app native degli scorsi degli ultimi che non si parlano tra di loro, che non si parlano, che sono morti, che generano dati chiusi, inaccessibili, che nessuna terza parte potrà utilizzare per fare un'altra app, e che inutile non era in grado di aggiornare, quindi ora stanno ostaggio in una società di super consulenza per bisogno di aggiornare un aggiornamento che fa 30.000 euro per le piattaforme e allora cosa succedeva? Le producevano costosissime e poi morivano dopo due mesi con un anno magari di lavoro. Io veramente ho paura, perché poi questi qua non sono dati che si condividono tanto volentieri, no? Però secondo me stiamo parlando che finanziando questo potevate andare avanti 6 anni. Con il macrosito, per esempio. Sì. Allora, io temo che per fare il secondo giro, come l'avevamo concepito, non riusciremo. Però facciamo una piccola pausa. Se qualcuno ha qualche domanda adesso, no? Ok, magari qualcuno di noi risponde, altrimenti proseguiamo su questi temi. L'ho detto apposta così non eravate preparati e adesso nessuno farà la domanda. Sono un genio, Più rispetto adesso. Vabbè, io volevo sapere. Aspetta, se no non viene nella registrazione. No, ma è solo una domanda, una curiosità. Salve, io vorrei sapere come si chiama il posto di Roma che fatto vedere prima e dove si trova, perché l'ho dimenticato. Il mammo o il macro? Non il macro, l'altro. Il mammo. E dove che è? Sulla Prenestina. Okay. Sì, via Prenestina è l'ex fabbrica Fiorucci, no? Okay. Ex. Sì, poi è tutto ex a Roma, cioè l'ex mia che diventa un altro posto bellissimo, un lago addirittura, vanno a nidificare gli uccelli. Quello c'ha una ragione storica, perché... Sì. Per favorire l'industrializzazione del sud, tutte le fabbriche che erano lì a Roma si sono spostate 5 km. Sì, sì, è vero, sulla pontina, perché c'era la linea della cassa del mezzogiorno. Esatto, contribuendo, diciamo, all'industrializzazione del mezzogiorno, quindi questi relitti urbani sì, è stata fatta, favorendo il mezzogiorno. Allora, visto che voi mentre voi pensate a qualche altra domanda, io volevo introdurre un altro piccolo commento su un altro termine che c'è nella definizione, che è miglioramento della società, no? Allora, il dibattito da Kyoto fino a Praga è stato molto, molto su questo, no? È stato molto, molto acceso, perché dietro a questa idea del miglioramento della società c'è un altro aspetto fondamentale, e cioè prendere posizione, quindi la non neutralità. Su questo, per esempio, l'altro giorno ho visto in televisione la bravissima Irene Baldriga, che insegna museologia didattica del Museo della Sapienza a Roma, dire, beh no, qui scusate, il tema non è tanto il miglioramento della società, che è una delle possibili, diciamo, ricadute, ma prima ancora dire, possiamo non essere neutrali, cioè possiamo prendere posizione per una qualsiasi forma di impegno civico, ok? Poi il miglioramento della società viene dopo, non so se siete d'accordo. Sì, io direi che anche tutto il tema, diciamo, della decolonizzazione dei musei, che è un tema attualissimo, che riguarda appunto non solo i musei di cui si occuperà Pigliani adesso, sì, secondo me non si può risolvere, come dire, con paradigma, cioè non è che tu puoi superare il museo, come dire, come la città, il paradigma urbano, bianco, maschile, normodo, cioè voglio dire mettendo il contrario, capito? Che è una tendenza che invece io vedo molto, no? Cioè l'idea è rovesciamo questo paradigma. Secondo me ogni paradigma che metti rischia di stare stretto a qualcuno. Quindi la questione è, ritorniamo all'apertura del museo, no? Il museo deve aprirsi a tutte le comunità, a tutti i paradigmi. Ciascuno può in quel momento parlare, rappresentare se stesso. Quindi non sono io che devo rappresentare i miei americani, i loro discendenti, cioè sì, rappresentassero da sé, che lo fanno meglio, e in tutta questa, diciamo, autorappresentazione ci può stare anche il paradigma vecchio papuco, che non è che necessariamente lo dobbiamo linciare, no, secondo me questa è l'unica modalità. E invece io vedo sempre, appunto, facciamo la proposta del cisgender, no, è che c'è sempre questa idea che appunto la crescita di qualcosa, comunque noi sappiamo dov'è che si deve andare, certo. Io questa bussola io non sento, cioè io so cosa vorrei io, ma non penso che il museo deve assomigliare a me, no? Quindi né penso di essere più nominato del precedente. Allora è questa arroganza, diciamo, no, cioè, del portatore di paradigma che va superato, secondo né, me. Diciamo, né assomigliare a ciò che è desiderato dall'attualità, da un certo punto che raggiunge, sì, il dibattito per aggregare consenso. Questo è sempre un po' il problema, quello del consenso. Deve essere uno spazio agonistico, come abbiamo tante volte detto, che è un'espressione di Chantal Mouffe, riferita anche ai musei, che noi abbiamo adottato, però con una piccola differenza, perché Chantal appunto parla dei musei come possibili spazi agonistici, nel senso di entrare in competizione con un modello egemonico, quindi è una controegemonia. Io invece non penso affatto questo, penso che devono essere agonistici perché tutti possiamo dibattere, anche rimanendo delle nostre opinioni. Cioè, il museo può essere il luogo dove ci si incontra e ci si scontra, no? Non necessariamente facendo il salto paradigmatico, diciamo, però la democrazia, per quello mi piaceva la definizione di Chiodo, è proprio questo, cioè un luogo dove la differenza è un valore, dove l'altro che dice una cosa diversa da me mi arricchisce, mi fa perlomeno venire il dubbio, no? Se no... Infatti, Sergio, mi ha fatto venire in mente ogni tanto... come misuriamo il successo, la riuscita di un allestimento delle parole di Giulia Ghiallopera? Lui mi ha dato una risposta, secondo me, bella, in conversazioni generate, che è quello che dici tu, quindi non del contenuto preciso di quelle conversazioni, ma nel confronto che hanno generato, lo scambio. Allora, siccome Gigi lo abbiamo coinvolto nell'introduzione, ma secondo me aveva preso appunti mentalmente su tante cose, magari c'era qualcosa su cui volevi aggiungere qualche riflessione. Sì, una riflessione che facevo mentre parlava, mi ricordo che Maddalena, mentre parlava su questo tema della digitalizzazione, eccetera, a un certo punto ha citato questa fenomeno tutto italiano dello spreco di risorse pubbliche, no? Allora noi stiamo assistendo in questo momento a un altro episodio della serie spreco di risorse pubbliche, quello del PNRR. Cioè, di tutti i problemi che noi abbiamo citato, cioè il PNRR non ne risolve uno, ma vorrei citare in particolare quello della digitalizzazione, perché sarà secondo me il più grande flop della storia, perché come sapete sul tema del PNRR ci sono tante risorse e le regioni tra l'altro sono destinatarie di queste risorse, ma le regole le scrive il Ministero naturalmente e sono assolutamente tutte regole che fanno riferimento a un paradigma di quantità, cioè a noi ci viene chiesto sostanzialmente di perimetrare i fabbisogni, ma in termini di quantità, di decidere che cosa digitalizzare, per quale motivo digitalizzare, con quale obiettivo, con quale scopo, a quale fine, non se ne parla assolutamente. L'obiettivo da raggiungere è il 2026, entro quell'obiettivo bisogna aver digitalizzato tot milioni di beni, ma di tutto il resto nessuno sa nulla. Allora capite che quando parlavo della definizione dell'ITUM e del suo essere dell'Italia. Non mi riferivo alla definizione di ITUM, che apprezzo, voglio dire, no? Mi riferivo all'impossibilità di attuare quella definizione alla luce di questa società di folli in cui viviamo. Cioè questo è il... Sì, io ricordo che quando con Giorgio e Maria Elena commentavamo questo PDF di non so quante pagine, dove c'era a un certo punto il capitolo La missione 1C3 del PNRR, che si chiamava Turismo e Cultura 4.0. Non siamo tutti d'accordo. Ma Pisa l'anno scorso l'hanno letto, no? Sì, sì, l'abbiamo letto. C'era una frase anche un po' folcloristica che io ho tirato fuori per ridere, cioè verrà sviluppata la nuova tecnologia transmediale attraverso la realtà virtuale aumentata e app dedicate ai singoli musei, che è esattamente quello che diceva, cioè ai singoli musei, cioè non un ecosistema di dati che si parlano, certo viene dichiarato l'obiettivo del fallimento, però poi prima c'era un preambolo un pochino più così edificante, questa è la parola migliore che mi viene, cioè si interverrà per garantire una forte accelerazione alla digitalizzazione dei settori del turismo e della cultura. Ricordiamo la digitalizzazione con il portale, cos'era? Quello italia.it? No, poi c'è il SART, non si trova. Beh, su il SART io non posso parlare perché già sono stato bannato da tutte le property di il SART per i miei commenti su il SART. E quindi non sarebbe, cioè, mi sento un po' parte in causa, però poi prosegue questo, il PNRR, il famoso PDF, chiamiamolo il PDF, il PNRR. Le misure di ripristino e rinnovamento del patrimonio fisico-culturale saranno accompagnate da un programma di digitalizzazione volto a virtualizzare con approccio standard, quindi poi dopo prima dice ogni singola app, no? Cioè, per ogni museo, però con approccio standard, è ispirato alle migliori pratiche internazionali, quindi a questo punto io impazzisco, cioè i miei errori mi risaltano. In questo modo, da un lato, si garantirà un accesso universale alle opere d'arte, cioè tutti quelli che riescono ad appuntarsi il nome di ogni singola app riusciranno, cioè ci sarà l'app della Gioconda e l'app del, non so, del Cretto di... E dall'altro si abiliteranno iniziative di approfondimento e di divulgazione innovativa. Ecco, ma io davvero invito tutti a leggere il libro di Maria Elena, perché vi fa entrare in un mondo molto diverso da quello descritto dal PNRR, che adesso senza sparare sulla croce rossa sappiamo essere comunque un documento che riflette molti conflitti, no, tra interessi che devono essere protetti e così via. Nel frattempo vi è venuta in mente qualche domanda, perché sono le 17:38, abbiamo 7 minuti, questa è un'altra strategia, no? Cioè, meno tempo lasci per le domande e più rapidamente ce la caviamo con le risposte. Ok, allora siccome la persona che ha parlato di meno fino a Elisa, che invece ci dà una nota di speranza, perché mi sembra che un po' se ne freghi di queste 7 righe del PNRR con una cosa come WAPUSIUM, ci vuoi lasciare magari uno spunto un pochino più ottimistico? Ma sì, nel senso che riflettendo sul museo del futuro e su tutto quello che facciamo giornalmente per intercettare pubblici, comprenderli, portarli dentro, lo spunto che lascio è questo: le organizzazioni tutte dovrebbero fare un passo indietro e quindi lavorare sulla partecipazione partendo dall'interno. E da Praga mi sono portato in questa fase: il museo partecipativo deve partire dalla partecipazione del proprio staff, la governance deve essere destrutturata, basta verticismi e lavoriamo su un processo basato su team. Quindi comprendere la complessità umana all'interno del proprio staff permette forse di rispondere più prontamente alle sfide che ogni giorno appunto viviamo ed agire con compassione. Quindi questo è lo spunto che ti voglio lasciare, quindi iniziare a lavorare, a ragionare sulle relazioni interne, lavorare nelle organizzazioni come si possa appunto in una famiglia, perché forse questo riesce a orientare meglio gli obiettivi, gli scenari futuri, le visioni, le modalità operative. Quindi, forse è questo lo spunto che vi lascio. Iniziare a lavorare sulle relazioni e anche negli studi che conduciamo, anche rispetto alla valutazione degli impatti, no? Cioè, lasciamo andare i numeri, non interessano più a nessuno, capiamo la qualità delle relazioni che stringiamo. E in questi paesi del Nord Europa si stanno modernizzando un po' con una serie di indicatori che vanno proprio a misurare la capacità, a partire dallo staff, di interagire con la direzione e tra i vari comparti. E niente, quindi noi come 34esimo Fuso stiamo lavorando già da un po' sul tema delle consulte, quindi come i cittadini si possono affiancare alle direzioni per aiutare a riorientare le strategie in virtù dei bisogni veri. Che arrivano dal territorio. Allora, mentre vi do un'ultima chance di riflettere la domanda, io aggiungo un piccolo messaggio, cioè io insomma credo che voi tutti vi sarete imbattuti nella polemica, ci sono troppi festival, no? E, se ci fossero troppi festival, io non capisco come mai, però nelle piazze qui di Lecce da un paio di giorni, spero anche domani, ci siano tante persone che decidono magari di staccare l'occhio dallo schermo del cellulare per ascoltare qualcuno che per un'ora ti parla di qualcosa su cui evidentemente ha qualcosa di rilevante da dire. Cioè, questo mi sembra un passaggio molto importante. Negli anni '80, quando lo schermo non era quello del telefono, ma era quello che avevamo in salotto, io tutti questi festival non li ricordo, cioè tutti questi momenti di interscambio, e allora evidentemente è sempre più sentita da parte delle persone una necessità di diversità rispetto a qualcosa di omologato che arriva dalle catene tradizionali, e su questo il museo sicuramente fa molto, perché quando entriamo in un museo, anche in quelli tra virgolette che non ci piacciono, anche in quelli un po' eterodiretti, un po' troppo istituzionali eccetera, però esci spesso con molte più notizie, molte più suggestioni rispetto a quando apri e chiudi un giornale, no? Cioè, per esempio adesso faccio riferimento al Maxi, proprio per allontanarmi il più possibile dai modelli che abbiamo detto. Il Maxi comunque ha steso un ponte tra l'Italia e il Medio Oriente e il mondo dell'Asia, raccontandoci per esempio l'Iran prima che diventasse l'attualità, no? Cioè, attraverso l'arte avevamo capito quali forze si stavano muovendo in questa società comunque molto giovane, che poi a un certo punto, con la pentola a pressione, no? è assurda ai titoli delle cronache. Quindi in realtà noi molte notizie, molte cose rilevanti per noi, per le nostre vite, le abbiamo anche dai musei, e quindi un museo può anche diventare un progetto editoriale, no? Lo sta concependo lo Pinto nel Macro nella sua ultima versione, può diventare un posto dove esplorare angolazioni diverse. Questo già di per sé ci fa per un attimo sfuggire da questa ruota del criceto, no? Quella che in cui corriamo tutti i giorni. Quindi su questo, al di là della realizzabilità delle cose che vediamo quassù, di tutti i problemi economici eccetera, è qualcosa che noi tutti dobbiamo al momento museale e al momento diciamo anche dello sforzo, delle professionalità che ci sono dietro, perché loro hanno il compito di tagliarci per un attimo fuori, no? da questo flusso continuo. E quindi, se non ci sono domande, ma ancora... No, solo una cosa, perché sì. Non dico niente. Volevo sapere se c'è in futuro un progetto di SWAP Museum per gli anziani. Perché dal mio punto di vista una delle difficoltà è quello di comunicare... Non posso venire anch'io. Con nonni, genitori, perché magari i ragazzi secondo me sono molto più attenti a queste cose dei propri genitori, dei propri nonni, proprio i paradigmi che dicevamo. Allora, in realtà esiste già un progetto di questo tipo. No, però devi dirlo che è per gli anziani, perché non è amplificata. Allora, no, è per noi 50. Ok. Ed è un processo simile a quello di Swap Museum, però indirizzato appunto agli over 50 e pensato in maniera peculiare rispetto ai bisogni di questa fascia d'età. Attualmente si svolge tra Corsi Corigliano Lotranto e Castellignano, che si chiama Viva Tante Belle Cose. È un progetto finanziato da Fondazione Con il Sud, perché le fondazioni rischiano e investono in processi i cui impatti non sono ben comprensibili da subito, ma si vedono sul lungo periodo, e quindi si esiste a una pagina Facebook Viva Tante Belle Cose, ed è lo stesso processo più o meno simile su tre beni culturali di questi tre paesi. E sulle tante belle cose, io credo, per parlare di nota di ottimismo, possiamo finire qua. Grazie a tutti per l'attenzione e mi raccomando, andate ai successivi appuntamenti. Grazie a tutti.